Sere fa capitavo per sbaglio sulle lunghezze d'onda di una rete televisiva privata finanziata dalla Curia, dove un certo Maurizio Mosca conduce una sua trasmissione sulla cui consistenza morale, vabbè, tacerò. Capitavo giusto nel momento in cui il sanguigno sudaticcio conduttore iniziava quello che lui presenta come un gioco, ma che, essendo privo di regole, sembra più una sorta di rituale massificante. Lui lo chiama il gioco dell'o disgiuntivo, dico io, quello che si inserisce tra due elementi in alternativa fra loro. Mosca si tira un po' su la cintola di quei pantaloni che tendono a cascargli e si piazza innanzi al suo pubblico compiacente. Gli grida cose come Ronaldo o Batistuta, boxer o slip, prosciutto cotto o prosciutto crudo, pigiama o camicia da notte. E la gente più o meno all'unisono urla a squarciagola la sua preferenza. Ne risulta il polso ideologico della nazione, ovvero di quella nazione che accetta l'idea che al mondo si possa e si debba scegliere tra opposti senza mai chiedersi né in base a che criteri i due elementi prescelti siano opposti, né se mille altre alternative intermedie non sarebbero preferibili a seconda del criterio adottato, come se a Roma o morte non si potesse preferire, almeno in certi momenti di questa nostra tribolata esistenza, che so, Poggi Bonsi o Raffreddore, oppure Civitavecchia e Micrania. L'idea che tutto al mondo debba essere visto in termini di bene e di male è comunemente detta manicheismo. È un'idea che a parole viene spesso condannata, ma di fatto incoraggiata, e pochi ricordano la terribile storia di condanne che si porta dietro. L'origine è controversa, ma le fonti più attendibili sembrano concordi nel collocarla nella Persia del III secolo d.C. Lì un prete cristiano, un certo Mani per alcuni, un Manete per altri, pescando a piene mani, non si potrebbe dire altrimenti, nei sistemi mistico-filosofici precedenti come quello di Pitagora, tentò di rendere compatibili le dottrine orientali con il cristianesimo. Non l'avesse mai fatto. Già pochi anni dopo la sua morte, il compagno San Cirillo Gerosolomitano, che vuol dire di Gerusalemme per distinguerlo dal compagno San Cirillo Alessandrino, si affrettava a dichiarare, commosse di cui i partiti politici successivi non smettono a tutt'oggi di ringraziarlo, si affrettava a dichiarare che questo Mani mai e poi mai professò la fede cristiana. Fatto sta comunque che da lì scaturirono molteplici e sanguinose scissioni. Si rinsaldarono le sette gnostiche e l'infezione si trasmise prima in Armenia, in buona parte di Oriente, per poi tramite la Bulgaria giungere a contaminare l'italica stirpe di Lombardia e l'Oltralpe francese. Manichei più e meno travestiti agli occhi della Chiesa di Roma furono allora i Pauliciani, i Bracchiti, i Baaniti, gli Enriciani, i Petrobrusiani, i Poplicani, i Catari, i Priscillianisti, gli Ussiti, i Viclefiti e financo i peggiori di tutti, che furono i protestanti, peggiori di tutti perché interpreti dello scippo più cospicuo dei iscritti. È inutile dire che nel tentativo di porre un freno al dilagare dell'infezione si ricorse a mezzi drastici. Soltanto quel fiore di virtù cristiana che fu l'imperatrice Teodora nell'841 ne ammazzò un 100.000 dopo atroci supplizi. Furono accusati di essere contrari alle immagini sacre e perfino all'agricoltura, di sedurre le femmine con segrete dissolutezze e di calunniare Santa Madre Chiesa e i ministri di Dio che ne occupavano le alte gerarchie. Con questo stato di servizio in Europa per secoli resero l'anima a Dio sul rogo. Per confutare questa loro convinzione nel dualismo di male e di bene si diede da fare, accanendosi non poco, perfino Sant'Agostino. In un mondo illuminato dalla luce di Dio, questa è la sottile distinzione, le tenebre non sono una sostanza di per sé, ma semplicemente assenza di luce. Filosofia, teologia. Invece narrazioni di oggi ci portano su una spiaggia, su un pontile, no? Dove c'è un bel fustacchione, quando arriva la ragazzina sgraziata e tondetta con il suo asciugamano verde e la borsa da mare. Si siede goffamente e non può evitare di vedere le curve perfette di una sdraiata accanto in succinto bikini. Poi dal basso verso l'alto le tocca ora ammirare due plastiche paia di chiappe che si allontanano su gambe ben tornite, e stanno anche arrivando, frische e sportive, tre magnificenze poppute in completo rosso fiammante. Abbassa lo sguardo contrito. La disgraziata fanciulla, il mondo è troppo bello per lei. Di quel libro di Lukács del 1911, L'anima e le forme, a lei, maledizione, è toccata solo la prima. Ce ne sarebbe abbastanza per rivolgersi al bocchettone del gas, ma a lei, che la sa più lunga di me, si rivolge invece a Vigor Sol. Lo cerca in borsa, lo trova e se lo biascica prontamente. Riguarda allora il mondo. Là c'è un bambino troppo grasso che fa un castello di sabbia, qui c'è la vicina in bikini che, tirandosi su, si mostra lardellata come la pubblicità del colesterolo. Arrivano tre pachidermi in costume rosso fiammante, ansanti e stravolte, sono anche incivili e nefaste perché passano sopra al castello di sabbia del bambino e lo radono al suolo. Lei ride, si scioglie i capelli, è carina. Si volta e sul pontile un obeso la saluta con la mano. È un ragazzo strabordante, sì, è un vero ciccione, tant'è vero che il pontile crolla. Finisce in acqua anche un pacchettino di Vigor Sol ed un pesce si spaventa. Lo spot è girato in forma di incubo che evolve positivamente, da tutto negativo a tutto positivo. È il residuato laico del manicheismo nel mondo. Non solo non è perseguitato, ma è caldamente e surrettiziamente raccomandato. Vi è riconoscibile il calco consolidato di tutta l'ideologia corrente a sostegno dell'accettazione del mondo così com'è di fatto e della sua virtuale plasticità a disposizione del singolo, a patto che questo singolo abbracci la giusta opzione mercantile. Chewing gum, merendine, bibite, droghe, sport, religioni, tutto va bene. Dal malessere al benessere e viceversa, secondo il modello mors tua vita mea, da un estremo all'altro, nell'irresponsabilità collettiva, senza la fatica di costruirsi le stazioni intermedie. Non so quanti sedicenti cristiani, nonostante la terribile storia che hanno alle spalle, quanti sedicenti cristiani possano in coscienza dirsi scevri da ogni forma di manicheismo. Nemmeno mi vedo un Maurizio Mosca particolarmente consapevole del fatto che con il suo giochino in altri tempi avrebbe rischiato il rogo. Tuttavia, un po' miracolato dovrebbe ritenersi. Tempo fa, lui, prima di approdare alle televisioni di Berlusconi e a quelle della Curia, era giornalista alla Gazzetta dello Sport. Un brutto giorno, però, pubblicò una pagina intera di un'intervista con un noto campione brasiliano che giocava a pallone in Italia. Era, come si dice in questi contesti, un'intervista esplosiva, no? Zeppa di rivelazioni sensazionali, un vero scoop giornalistico, indimenticabile. Indimenticabile soprattutto perché il giorno dopo il giornale dovette pubblicare la notizia che Mosca e il campione brasiliano non si erano affatto incontrati e che non si erano neppure sentiti per telefono. L'intervista era inventata di sana pianta e giorni dopo Mosca fece le valigie in cerca di fortune altrove, che più o meno puntuali arrivarono, a condizione di un minimo adattamento darwiniano. Da giornalista, per sopravvivere, dovete trasformarsi in attor comico. È figlio di quel Giovanni Mosca che, fra l'altro, nel 1939 scrisse dei fortunati ricordi di scuola, un panegirico dei buoni sentimenti e un atto di fede nell'innocenza. Per 650 lire nel 1958 me ne ero comprato la 20ª edizione. e riandandola a sfogliare nei giorni scorsi mi sono accorto di un frontespizio che avevo dimenticato. Non potendo sapere come sarebbero andate le cose, giustamente, l'aveva dedicato ai suoi figli.